così no, così no, così no, così no, così non può durare. Perché tu fai solo disperare. Se voglio i tuoi baci, tu mi guardi e ridi. Lo sai che mi piaci, ma non vuoi capirmi. Così no, così no, così no, così no, così non devi far. Perché tu, perché tu, la vita sei per me. Comprendimi e davvero su baciami, non dirmi più di no. Così sì, così sì. Così no, così no, così non devi far. Perché tu, la vita sei per me.